sussurro di Wombat. Questa è Radio Wombat. Radio Wombat. E buonasera amici radioaspettatori e amiche radioaspettatrici per una nuova puntata di 8 Hertz. Ci abbiamo preso il vizio e infatti anche questa puntata sarà dedicata al sottoprogramma di 8 Hertz che si chiama La Rotella. Questo format un po' così che mi è venuto in mente, ve lo spiego se è la prima volta che lo stai ascoltando. Si tratta di improvvisazioni totali, spersonalizzate, nel senso che non si sa chi suona, anonime, ecco, della durata di un'ora, un'ora e mezzo circa così, elettroniche, sintetiche con... pochi synth o pochissimi effetti in caso, ogni volta sempre con un ospite diverso e non saprete mai chi è che suona. Questo perché? Anche perché così rende più libero da parte di chi fa l'improvvisazione il modo di suonare, visto che non diventa più un discorso di egomania o egocentrico, per cui è tutto per voi senza un fine, diciamo, personale nella cosa, sperando che insomma vi possa interessare e che vi avvicini un po' a queste sonorità e anche, perché no, anzi soprattutto a prendere in mano anche voi un attrezzo elettronico e provare a fare qualcosina o qualcosa di grosso, insomma. Beh, ci risentiamo dopo, intanto partiamo un po' con la cosa, si dovrebbe già sentire qualche suono. Pensa così, prima alle porte dell'inverno, alle porte dell'inferno, ci è preso di fare questi bellissimi live, e questo è il volume 3. Buon ascolto. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Radio Wombat e questa è 8 Hz, e vi ricordo le cose che ci sono questo fine settimana. Fondamentalmente sabato 16 dicembre in diretta insieme alla radio dalle 15 corteo per Zambe di Op, fuori i fascisti da Firenze, fuori il razzismo dalla storia. Saranno gli interventi della radio appunto alle ore 15 in piazza San Jacopino, e poi più tardi all'Emerson festeggiamo proprio il quinto compleanno, il compleanno della radio e anche il quinto compleanno degli Immirus Sound System, che è una serata dub. Tra chi ci suona c'è Immirus, appunto, Ranking Fox, Dub Bass, Disco Rebel. Appunto venite, perché è proprio il compleanno della radio, il grande festeggiamento in pompa magna, per cui venite. E vi ricordo anche che esistono tutte le altre trasmissioni che potete trovare nel palinsesto via via aggiornato, e grazie a tutti. Noi continuiamo un altro pochetto e alla prossima settimana. 8 Hz Radio Wombat. Thank you.